Noi Mi abbiamo tirano le terminato. gambe, però. Vedi, però sei molto intelligente, da qualche istante a questa parte. Per cui adesso, con tutto questo mare di intelligenza, possiamo salutare i nostri ascoltatori. Andiamo a prenderci un caffè. La pancia borbotta. Sed panciam borbottam, no? Buongiorno, innanzitutto saluto le due monelle che sono bellissime e bravissime. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Siamo a Pitti Uomo in diretta da Firenze presso lo stand dei Bridge. Che bellezza! Eh beh, due donne a Pitti Uomo, meglio di così non ci poteva andare stamattina. Assolutamente. Senti, abbiamo visto, va di moda ancora il colore, li abbiamo visti un po' borchiati, ma io ho visto un mondo di barbe. Prendendo ci in prestito... sarà anche lo stilista della barba, chissà. Sì, insomma, come si dice? Si dice donna barbuta sempre piaciuta, direi uomo sì. barbuto sempre Vorrei fare piaciuto. Un sondaggio su questo argomento, ma lasciamo perdere. Lo chiediamo già subito alle nostre tre amiche da casa se a loro piace l'uomo con la barba, dato che la barba va molto di moda. 800 24 00 24, ma anticipiamo che non parleremo solo di barba. No, parleremo anche di look e di stile. Quello che hanno adottato molti uomini recentemente sembra proprio essere il look da guerriero, che si è diffuso nella moda ma anche nel cinema e nello sport. Cara Nicoletta, direi che la barba aggiunge un tocco di eleganza, anche se per la verità qualcuno non piace. È il caso della regina Elisabetta, che ha ordinato al nipote Harry di tagliare subito la sua barba. Beh, forse voleva... le nonne hanno sempre ragione. Trucco forse per salvare un po' un viso paffutello. Smagrisce un po' e poi scopriremo con i nostri esperti che potrebbe anche far bene. Per quale motivo? Perché magari potrebbe riposare la pelle, ma ne parleremo. Comunque, barbuti ma anche molto eleganti e soprattutto molto narcisi, perché a quanto pare gli uomini spendono più delle donne, da qualche tempo a questa parte, per i trattamenti di bellezza. E allora subito, 800 24 00 24, uomini all'ascolto, spendete per la vostra bellezza e per il vostro aspetto. Quanto? Siete diventati più attenti a questi aspetti negli ultimi anni perché è stata una donna a farvi cambiare? Vi considerate dei narcisi? 800 24 00 24, ci potete come sempre seguire mandando un messaggio al 349 238 6666 e seguirci su Facebook e su Twitter. Ma noi siamo a Pitti Uomo, raccontiamo anche ai nostri ascoltatori quali sono le tendenze di moda, come si fa a essere degli uomini eleganti. Basta l'abito? Lo scopriremo strada facendo. Adesso partiamo. Salva Danaio. Voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida. A salvarmi, vieni a salvarmi, salvami in pace al colpevole, se dice la verità. Senti questa, lo sai come qualcuno ha definito il nostro paese? Una repubblica di narcisi con i pantaloni. E ne abbiamo la dimostrazione anche qui a Firenze, a Pitti Uomo, la kermesse dedicata proprio alla bellezza, allo stile e all'eleganza. Devo dire che vedo parecchi uomini curati, attenti, eleganti. Sta facendo belloci, una sta guardando, una ce ne sono un po' di diretta. Tutte le età, ma direi che anche noi qua siamo messi molto bene. Esatto, abbiamo. Perché noi abbiamo invitato una bella donna, ma anche un bell'uomo, e entrambi naturalmente ci rappresentano lo stile di Firenze. È molto elegante anche il nostro ospite, Beppe Angiolini, non fiorentino, aretino, giusto? Bisogna stare attenti perché esatto. Arezzo Firenze. A scambiare una città con un'altra. Presidente della Camera Italiana dei Buyer, giusto? Corretto? Poi ci racconterà che cosa vuol dire fare questo mestiere, che cos'è un buyer. Se prima trionfava il detto, che non è molto carino, l'uomo ha da puzzà, Angiolini, negli ultimi tempi le cose sono un tantino cambiate, ce lo può raccontare anche lei, giusto? Assolutamente, assolutamente. L'uomo è molto attento oggi al proprio io, quindi compra, acquista, si veste, si fa anche delle cure, diciamo, così, come dicevate voi prima. Quindi l'uomo l'immagine è veramente fondamentale. Certo, l'abito non fa il monaco completamente, però aiuta. Certo. Quindi dico, un uomo ben vestito, un uomo elegante, un uomo si presenta bene in qualsiasi occasione, è sempre una presentazione, un biglietto da visita importante, diciamo, no? Quindi è più facile anche l'approccio. Un uomo invece magari mal vestito o con un'aria, forse ottiene meno risultati. ma adesso... anche una donna, penso. Cioè, probabilmente no, sì. Non tutto, non è tutto, però insomma una parte... Beppe, ma l'uomo stropicciato che si usava un po' qualche anno fa, no? Quello un po' scarruffato, sì, che sembrava appena sceso dal letto, ecco. Si usa o non si usa? No, io ho un concetto sul look di un uomo, nel senso molto preciso, e penso che sia anche quello che pensa molte persone, molti uomini che io conosco. Oggi un uomo si veste anche elegante, va bene, ok, però deve essere sempre personale, sempre con un'identità propria, precisa, sì. Cioè se stesso, quindi lo stile è più importante della moda, a mio avviso. Quindi un uomo con stile è molto più elegante di uno tutto tac e punta, come si può dire, perfetto. E questo uomo per me deve essere anche un po' ironico, deve essere anche un po', deve avere un tocco di negligenza, di non perfezione, perché non stropicciato, però un atteggiamento con una roba foulard, una roba un dettaglio, che gli dia quel suo tocco di personalizzazione e anche di canzonato un po' più, forse più divertente. Abbiamo capito, insomma, quello che secondo la visione di Angiolini piace alle donne, e lui ne sa. Lui, tu sai che è curato nello stile Sting con sua moglie? Vero. Ma come raccontaci qualcosa di loro. È stato facile o hai dovuto in qualche modo importi? Ti racconto una cosa molto strana. La signora Trudy viene da me in negozio con l'assistente Bayer, quindi una ragazza inglese, arriva, io non ero presente, oppure entro, non mi sono accorto di questa roba, lei arriva là e vedo che sceglie delle cose, una gran quantità, insomma, abbastanza fortunata lei, vabbè, abbastanza importante, però tutte sbagliate. Provavo un secondo, le metto in un angolo, continuavo a accumulare, e io dico alla mia direttrice, ma che sta facendo questa signora di là? Dico, e la Bayer, l'assistente Bayer, si è accorta che io ero un po' così, ero irritato, dico, ma buttato la balà, quanto perché la roccia tutta sopra il tavolo? Sì. A un certo punto mi guarda e mi dice, guardi la signora Trudy Sting. Io dico, ah ok, allora faccia quello che vuole. Butti tutto, faccio tutto che vuole, perché dico, a quel punto poi ha fatto di sopra da uomo, ha scelto delle cose anche per lui. Ma lui è bello, eh? È un uomo molto, molto, molto, molto attraente. Lui non ha bisogno neanche del dettaglio, direi. Devo dire che è una delle persone forse che con più carisma dopo, come pochi altri. È un personaggio stupefacente. 800 24 00 24, vi dico questo numero verde con aria sognante, e vorrei andare subito a dare la parola alla nostra prossima esperta, che è qua in studio con noi, è Marta Grazzini, dermatologa dell'Università di Firenze. Buongiorno. L'uomo è più curato, dottoressa, se ne sta accorgendo anche lei? Ma sì, sempre di più, sicuramente gli uomini stanno diventando dei nostri pazienti per quanto riguarda la parte esterna, sempre più frequentemente si curano della pelle, sia per quanto riguarda l'invecchiamento della cute che per quanto riguarda tutto quello che sono le macchie, le rughe. Anche stanno molto attenti alla rasatura, alla abbronzatura, a tutti i processi che riguardano comunque la parte estetica della loro pelle, perché alla fine la pelle è il biglietto da visita, no, è l'abito. Noi oggi parleremo di tessuti anche con Beppe, ma è l'abito per antonomasia, il 4 stagioni, che dura tutta la vita, che cresce con noi, che è il nostro biglietto da visita, che ci contiene, ci protegge, ma al tempo stesso è una barriera verso l'esterno, e la pelle, quindi teniamola da conto, perché è l'abito proprio nature che ci viene, che si vede. Esatto, il biglietto da visita, diciamo, di ognuno di noi. Quello. Parleremo, e stanno arrivando molti messaggi al 349 238 6666. E come già potevamo immaginare, dato il tema che abbiamo lanciato, quello della barba, un po' delle donne anche, no? Capirai, gli ascoltatori si sono scatenati. Allora, tra l'altro, a proposito del fatto che gli uomini, secondo quello che abbiamo raccontato noi, ma lo raccontano molti dati e molte statistiche, molte ricerche, gli uomini spendono di più delle donne perché ne hanno più bisogno, forse hanno magari proprio delle caratteristiche, anche, non so, del derma piuttosto che di altro, che obbliga un po' loro a spendere un po' di più. Non so, dottoressa, se lei è d'accordo. Ma diciamo che sicuramente la pelle dell'uomo è diversa da quella della donna, quindi comunque presenta delle caratteristiche per cui necessita dei prodotti di tipo diverso. E oltre a questo, l'uomo spende sì di più, ma ci dedica anche meno tempo, quindi ha bisogno di prodotti più facilmente assorbibili, con una fragranza maschile, caratteristiche un po' diverse, ecco, rispetto a quella della donna. Perché la pelle dell'uomo è diversa da quella della donna, delle caratteristiche proprio particolari. Ad esempio, sembra che invecchi meglio, è solo un'impressione, ce lo dica. Esattamente, la pelle dell'uomo come struttura è uguale a quella della donna, però è sottoposta a ormoni differenti, in particolare gli androgeni, il testosterone, quindi l'uomo nasce con una pelle più spessa di circa il 20% e anche più densa, quindi vuol dire più ricca di fibre, quindi vuol dire anche meno rughe nella sostanza. Però cosa succede? Col passare degli anni la pelle della donna invece resiste un po' di più, mentre la pelle dell'uomo invece ha una decadenza un po' più regolare, quindi comunque poi col tempo le cose si equilibrano, diciamo. Beppe, non si finisce mai di imparare, non c'è niente da fare. E ci sono allora ascoltatori che il mio compagno alla barba ci racconta, quando se la fa corta nostro figlio di 18 mesi non lo riconosce, quindi deve farsela ricrescere, si spaventa, ci racconta Katia. Marito 1 barba, compagno 1 barba, compagno 2 barba, marito 2 niente barba, ma questa è un'altra storia, uomini passatempo almeno con i baffi viola. Vabbè, questa è un'altra filosofia di un'altra nostra ascoltatrice. Prediligo le femmine irsute sotto le ascelle, care simpatiche conduttrici. E io su qui chiudo la parentesi. E invitiamo i nostri ascoltatori a mettersi in contatto con noi, 800 24 00 24, per avere consigli, darci consigli di stile, ma anche di stile di vita. Parliamo di abiti, ma parliamo anche dell'abito per antonomasia, che è la nostra pelle. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri al tuo sapore. Uomini all'ascolto, raccontateci se siete narcisi, se siete anche soddisfatti del vostro aspetto e se magari ascoltando questa trasmissione vi è venuto in mente: da domani zac, azzero tutto e mi rifaccio il look. Beppe Angiolini, che cosa sta vedendo tra l'altro a questa rassegna di Firenze? Quali sono le nuove tendenze della moda? Cosa vedremo che indosserete nei prossimi mesi e nelle prossime stagioni? Sicuramente una tendenza è un uomo sofisticato, sofisticato, un uomo con look anche direi intellettuale. Cioè oggi anche la vale anche per la donna questo, un acquisto è fatto sicuramente in maniera molto intelligente da parte del cliente, di un potenziale acquirente. Quindi dico, un uomo spende guardando al tessuto, guardando alla qualità, guardando alla fason, cioè come è fatto un capo, cioè non è più diciamo così tutto va bene, cioè si veste con cose, e quindi la scelta è selettiva per quanto riguarda, insomma, cioè, certe discorsi, insomma, importanti, certo. e poi se vuoi anche il prezzo. Ora, un oggetto speciale può essere anche strapagato, però in media dico, l'uomo guarda il rapporto qualità-prezzo, è veramente fondamentale su ogni settore, certo, penso. Ovvio. Quindi la concretezza, diciamo così, è un termine, una parola d'ordine quasi, concreto in tutto, equilibrato, insomma, l'equilibrio è fondamentale. Certo, senta, vengono gli uomini nelle sue boutique con le idee molto chiare o vengono mediamente accompagnati da moglie o fidanzata che li stimola un po' a fare la scelta giusta? Ma guarda, da Sugar c'è un detto, c'è un molto, molto preciso: un uomo entra e viene, diciamo così, coccolato, nel senso, oggi il servizio è altrettanto fondamentale, perché quando entra una persona in un negozio di un certo tipo, diciamo, non dovete buttare però gli abiti uno dopo l'altro sui banconi, perché se no si è la moglie di Sting, o lei o niente, però poi divento isterico io. No, è fondamentale che uno entra in noi, quindi va seguito, va comunque sia accolto, perché oggi il servizio è un altro elemento super importante. Certo. Se un negozio di lusso in cui sono prezzi importanti, capi, insomma, di un certo tipo, un certo gusto, con qualità estrema, quindi il lusso è anche questo, è anche il servizio al cliente. Noi al cliente noi diamo veramente assistenza in tutto. E il cliente è preparato, assolutamente preparato, anche i ragazzi oggi giovani sono molto preparati, molto attenti, si vestono molto meglio di quando ero più giovane io, e quindi hanno l'attenzione, sanno cosa vogliono, però chiaramente è logico che un look totale lo crei mettendo insieme delle cose anche, diciamo, anche per fare un equilibrio sul prezzo, quindi prendi una giacca magari griffata, poi un paio di jeans, un mix intelligente, questo è, noi siamo stati bravi, diciamo, a selezionare i marchi, a mettere insieme prodotti, capsule, prodotti giovani, tutto quello che serve per creare un mix intelligente che ti permette di essere elegante, ma anche di risparmiare un po'. Ma anche i giovani, guarda, i giovani oggi non vogliono spendere più cifre di prima, sono molto più guardano molto più alla certo, perché i soldi ce ne sono pochi, poi sono più minimal, sono più raffinati, hanno veramente una tendenza, non vogliono un jeans, è troppo costoso, non gli interessa, non lo guardano neanche. 800 24 00 24, stiamo in fondo parlando di stile, ma che cos'è per voi lo stile? Il nostro ospite diceva non basta un abito, no? Ci vuole anche un mix di altre cose, ci vuole fascino, eleganza innata, cultura, anche empatia, saper guardare il comportamento. Dateci la vostra ricetta di stile, proprio qui a Pitti Uomo Firenze. Noi stiamo vedendo molti uomini, alcuni sono in effetti molto ben vestiti, ma magari l'occhio ti cade su uomini che sono vestiti in modo più normale, ma che hanno un incedere più elegante. 349-238-6666, che ne dici, Deborina? Dico che sto leggendo anche con grande interesse tanti messaggi che ci stanno arrivando, che di ascoltatori che stavano ascoltando appunto con grande attenzione quello che stava dicendo Beppe Angiolini. Qualcuno mette un dito in una piaga, Angiolini, rammenti a questo signore che la Cina esiste, e poi vedremo appunto in che modo possiamo declinare questo argomento anche nel corso della nostra conversazione. Da un indolente barbuto tenete alto il nome di Biella e i suoi inimitabili tessuti. Nicoletta, perché anche a proposito di tessuti, io vorrei proprio parlare di tessuti che ci avvolgono, ci accarezzano. C'è sempre la raccomandazione dai dermatologi di utilizzare tessuti naturali, perché il tessuto ci copre, ci riscalda o ci rinfresca in estate, ma può anche irritare la nostra pelle, e sono in aumento questo genere di allergie da contatto, possiamo definirle così, che si localizzano e si presentano proprio con una serie di piccoli puntini che non a caso prudono. Dottoressa? Sì, infatti è vero, le allergie da tessuti, le allergie da cutanee da contatto si chiamano, sono in aumento, perché appunto i prodotti, quelli che vengono da noi definiti allergeni, che vengono utilizzati per la lavorazione dei tessuti, come per esempio le gomme, le resini, anche i coloranti, possono formare delle allergie sulla pelle. Allergie che si presentano anche abbastanza facilmente, si evidenziano facilmente, perché si trovano proprio nei punti dove il capo d'abbigliamento è stato a contatto diretto con la pelle, per esempio tipicamente alle ascelle, all'inguine, dove c'è anche più calore, più sudorazione, quindi si ha proprio questo rossore e prurito fondamentalmente. Oppure nel collo della camicia, dove gli uomini che portano ad esempio la cravatta e devono, quindi si porta ancora la cravatta o solo nelle occasioni? Facile portarla quando c'hai un evento, la cravatta di mattina, insomma, che un ufficio, un lavoro, un professionista, magari se la mette ancora, però non è indispensabile. Non è indispensabile. Angiolini non lo vedo tanto da cravatta. No, non troppo, però ieri sera avevo la cravatta, avevo una roba, una scena, mi sono messo una cravatta classica, perché per me la cravatta è comunque un bello elemento per l'uomo, come un papillon. Certo, come però fatto per anno, non già fatto. Mi piace l'uomo che sa fare. Quella, il gestualità che fa parte del. Tu lo sai fare? Io sì. Io no. Ma te lo insegno. Però bisogna prendersi un uomo che sappia già farsi il papillon, perché pure il papillon dobbiamo fargli. E perché è carino quel gesto in cui ti prendi di cura di uomo, quando metti quell'ultimo tocco appunto per sistemare il nodo, è un gesto molto carino. Dottoressa, noi l'abbiamo interrotta parlando di allergie, abbiamo detto che sono i punti, quelli ci sono proprio dei punti precisi, più specifici. Al primo prurito, al primo rossore, si cerca di mettere sopra qualche crema che lenisca un po' il fastidio, ma io so che a pasticciare, a mettere delle creme senza sapere esattamente l'effetto che producono sulla nostra pelle, si rischia di fare più danno, si rischia cioè di andare poi a distanza di tempo dal dermatologo, che viene un po' in qualche modo confuso da questi trattamenti, non trova più la possibilità di fare una diagnosi sicura. E lei è d'accordo? Sì, sono perfettamente d'accordo. Sicuramente usare creme con principi attivi tipo antibiotici, tipo cortisonici a caso caso prodotti fai da te è sicuramente sbagliato, perché poi dopo il medico non riesce a più a capire che tipo di malattia, di che tipo di malattia quella persona è affetta. Quello che si può fare però è idratare la pelle, questo non è mai sbagliato. Se di fronte a un'irritazione, a un prurito, noi usiamo una buona crema idratante e basta, è la cosa che non dà a nessun tipo di problema dal punto di vista della diagnosi e ci lenisce un pochino il prurito fino alla visita dal medico di famiglia o dal dermatologo. Oggi ci occuperemo, dicevamo, di abiti, ma anche dell'abito nella nostra pelle, della pelle dell'uomo, che presenta della fragilità identica a quella della donna, ma dato che gli uomini solitamente non si truccano, non possono utilizzare il camouflage, il trucco che copre gli inestetismi, sì, magari hanno dei problemi, no, con delle piccole malattie della pelle, degli sfoghi, degli eczemi, oppure anche con disturbi più severi, più importanti, come la dermatite atopica, la dermatite seborroica. Ne parleremo nel corso della trasmissione, perché gli uomini sono molto attenti, naturalmente il viso, Beppe ce lo puoi, no? È comunque come l'abito, è un po' la nostra carta, no, di identità, e quindi cercheremo di dare consigli. 800 24 00 24. E chi peschiamo al numero verde? Alessandro dalla provincia di Catania, Bruno da Mantova, ne prendiamo uno al volo, poi il secondo lo sentiamo dopo il collegamento per aggiornarci sui mercati finanziari. Alessandro da Catania è categorico. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io ho sentito che parlavate di stile e soprattutto anche di cosa si può dire degli uomini in merito all'eleganza e alla raffinatezza, che sono tutte caratteristiche che secondo me ognuno di noi può avere di suo, perché ce le ha dalla nascita, ma può anche costruirsele. E in effetti anche prima sentivo parlare della cravatta e il nodo della cravatta e il modo di usare un fazzoletto, una pochette nel taschino della giacca, piuttosto che avere una scarpa con fibbia o allacciata, sono tutti costruiscono il compendio che poi io definisco stile di ognuno di noi. Certo. È evidente, Alessandro, che si vede che lei ne sa, perché vedo il nostro ospite che sta annuendo, quindi lei è uno addetto ai lavori, sicuramente sì, no, vengo da Pitti, sono in viaggio e sto andando a Cortina a vedere un negozio, però non è vero quello che dite voi, però è anche vero che la mia vita non è cominciata con l'abbigliamento, ma io mi sono rivolto all'abbigliamento su me stesso, evidentemente, per cercare sempre di migliorare e soprattutto di essere gradevole alla vista degli altri. Bravissimo. Giusto. Alessandro, bravo. Che possiamo dirle? Alessandro, fa bene, continui a curarsi. Oltre e Bruno, andiamo da Bruno a Mantova, non possiamo. Bruno, venga con noi salutare. Ai mercati. Bruno, ci sente? Bruno? Sì, allora le chiediamo un minuto di pazienza, perché io, anche se lei non è interessato, le racconto cosa succede oggi in borsa e poi sentiamo la sua domanda. Ma tra Bruno poco. È molto interessato. Molto interessato, a tra poco. Cuore e denari. Eppure dicono l'abito non fa il monaco. Non è vero. Io, a furia di indossare indegnamente questa gloriosa divisa, maresciallo, mi sento un po' carabiniera. Sì. E per un ladro morire da carabiniere è una grande soddisfazione. Maresciallo. E siamo tornati insieme, siamo a Firenze, a Pitti Uomo, allo stand De Bridge, parliamo naturalmente di uomini, lo facciamo con la dottoressa Marta Grazzini, dermatologa all'Università di Firenze, perché parliamo dell'abito per antonomasia, la nostra pelle, ma parliamo proprio qui, che è un po' il momento clou dell'anno della moda, anche di tendenze, di abiti, di tessuti, e lo facciamo con Beppe Angiolini, presidente della Camera Italiana dei Buyer. Ma come è cambiato questo uomo? Adesso è passato un signore coloratissimo, giacca rosa, pantaloni sull'arancio, un cappello stranissimo, è cambiato. Vogliamo dare anche una lettura, o cercare di dare una lettura sociologica, e abbiamo il piacere di avere in linea con noi la professoressa Rita Caccamo, sociologa e docente di analisi della moda e degli stili alla Sapienza di Roma. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Ci spiace, l'abbiamo fatto un po' attendere, ma avevamo grandissimo piacere di stare con lei, perché vorremmo che lei ci aiutasse a capire dal punto di vista sociologico se possiamo individuare delle tipologie. Ma sicuramente possiamo individuare tante tipologie. Io però innanzitutto farei una distinzione che mi pareva finora che non fosse stata fatta, e cioè l'uomo alla moda e l'uomo e la moda. L'uomo e la moda è quello che lo segue, mentre l'uomo e la moda è l'uomo che la elabora, la rielabora, coinvolgendo completamente il proprio stile di vita. Questo è un concetto che in parte è stato già accennato. In particolare io penso, diciamo, al dandy che si stilizza e che sfonda la moda moderna. È un soggetto contro il dandy, si contrappone al borghese, dedito alla famiglia, al lavoro, alla carriera e anche al culto del denaro. Si distingue poi dal bohemien, che è un altro tipo importantissimo della moda, sul quale adesso non avremo magari il tempo di soffermarci. Bohemien che è individualista, che però ha sempre un po' il fascino, no, del bohemien. Non c'è dubbio che c'è il fascino del bohemien, che è un edonista, un individualista, ma è anche un romantico e anche un discontinuo consumatore, consumerist. Quindi diciamo il bohemien è importantissimo proprio ai fini della nascita della moda moderna e delle illusioni che il consumo provoca nella moda moderna e in quella di oggi. Io però volevo fare un piccolo passo indietro per, diciamo, delineare un pochino di più la figura del dandy che fonda la moda all'inizio dell'Ottocento. Pensiamo appunto a Lord Brummel e al suo rapporto con il futuro re Giorgio IV d'Inghilterra, del quale era amico e confidente molto stretto, poi caduto in disgrazia. Ecco, un po' come Beppe Angiolini con Sting, vedi? Esatto. Tutto torna. Tutto torna. Professoressa Cacamo. E ricicli storici. Tutto è un Ma riciclo. Diciamo, a questo proposito volevo dire che il dandy è però un uomo audace, un uomo che ironico, ipersensibile. Però lei, professoressa, ci ha tratteggiato degli uomini, e a me, a Deborah, piacciono un po', ci piace il dandy, ci piace un po' il bohemien, e l'altra tipologia è anche a Beppe Angiolini. In effetti, perché oggi, Beppe, diciamo, non c'è più una distinzione. L'uomo si veste, diciamo, ha ragione la signora quando parla di queste, è giusto, questi stili di vita, sì, questi modi di essere dandy, o... Però oggi c'è un uomo si mette le cose, si deve vedere bene, ecco, quindi sì, questo è importante. Quindi non guarda più, per me l'uomo moderno, sì, ha un atteggiamento diverso rispetto al vestire. Professoressa Cacamo, potremmo coniare un'altra tipologia, l'uomo mix? Non c'è dubbio. Io voglio un uomo libero. Io ho parlato del dandy, quanto il dandy è una figura, storica, ma è anche una figura che poi si ripete, come dire, il dandy in qualche modo ritorna in tutto oppure in parte. Oggi per esempio non si può più parlare certo della purezza del dandy, oggi il dandy è meticciato, prendendo ora, quello volevo proprio dire, prendendo ora le forme del bohemien, ora quelle del consumatore trasversale di ceto medio. Non più quindi dandy e bohemien come distinzione, ma dandy e bohemien, che è un tipo della moda di vaste e differenti fasce sociali. Quindi, professoressa, ai nostri ascoltatori potremmo lanciare, ma soprattutto alle nostre ascoltatrici, sì, perché hanno l'occhio più attento, noi siamo molto attenti al compagno che amiamo, no? che è accanto a noi, perché magari lo vestiamo anche un po', ma siete meticciati o siete dello stile puro? Cioè siete un po' ancora giacca e cravatta perché... così si fa, oppure vi siete lasciati contaminare un po' magari da qualche tendenza di moda che vi ha attirato particolarmente? Trasversalità è la migliore cosa. Allora, ecco, Beppe Angelini suggerisce la trasversalità, ma io, prima di salutare la professoressa Cacamo, vorrei chiederle, professoressa, lei che è sociologa, ce lo dica bene, ci sono o non ci sono gli uomini, sono spariti gli uomini di una volta? Ma certamente, se per gli uomini di una volta pensiamo appunto al dandy storico, sono spariti, anche per fortuna, perché esatto, non ne sentiamo la nostalgia. Non abbiamo questa nostalgia, anzi, come dire, il dandy oggi appunto è più aperto, se possiamo comunque riferirci per una piccola parte ancora allo stile, lo stile di vita del dandy, però sicuramente questo meticciamento è positivo, è più affascinante chi poi lo crea e se lo riadatta, quindi ogni quindi uomo... siamo più fortunate, professoressa Caccamo, a essere donne del 2013? Non c'è dubbio, ci sono tanti tipi di eleganza e tanti tipi di comportamenti e stili di vita maschili, e questo, diciamo, mi piace anche proprio perché vedo che, questo siamo tutti d'accordo, che l'uomo alla moda oggi è un po' estremamente concentrato, appunto, estremamente selettivo, opera le sue scelte, attivo, come dire, non segue dei modelli preconfezionati, e questo mi pare, come dire... Questo ci piace, vediamo se piace anche alle nostre ascoltatrici. Intanto ringrazio la professoressa Rita Caccamo per essere stata con noi, sociologa, docente di analisi della moda e degli stili alla Sapienza di Roma. E buona autrice, giornata. Voglio ricordarlo, del Fascino Indiscreto della Moda, un libro che suggerisco sicuramente a Beppe Angiolini, Sogno, Comunicazione, Vita Quotidiana, Eros. Grazie professoressa, a presto. Grazie a voi, a presto. A presto. Buongiorno. E noi continuiamo ancora con il nostro programma e ancora chiedendo non solo alle ascoltatrici di intervenire per appunto sapere da loro se sono dovute un po' intervenire per correggere lo stile del loro compagno, perché sarà anche capitato, e agli uomini invece continuiamo a chiedere, insomma, siete uomini da cravatta? Quando avete un evento o una cerimonia, comprate un vestito costoso per l'occasione o giocate sull'originalità? Oppure siete per il fast fashion? Sul Sole 24 Ore degli ultimi giorni, Nicoletta, c'era proprio uno speciale dedicato a questo evento e ce ne sono state raccolte dalle colleghe appunto del quotidiano alcune testimonianze fra personaggi molto noti. Lo scrittore Andrea De Carlo dice su questo speciale: mai messa la cravatta in vita mia, però è un uomo il cui sguardo dice tutto, e direi che... Ma la cravatta comunque ogni tanto, secondo me sarebbe bene pure a lui, no? Perché c'è la cravatta giusta, no? Cosa dice? Sicuramente. Dai. Invece... Giovanni Allevi, lui non è tanto caro, perché noi gli vogliamo molto bene, noi spesso ospite anche Natale, eccetera, però lui dice: io ho un armadio pieno di vestiti tutti uguali, così la mattina non devo perdere tempo a scegliere cosa mettere. Ma le risulta, Angiolini, che molti suoi colleghi uomini facciano una scelta di questo tipo? Sono uomini che hanno tipo una tipologia di look, di abbigliamento, che tipo 5 scarpe uguali, 5 camicie uguali, 10 anche, 10 abiti uguali, giacca blu, magari 20 blazer blu, quindi, perché tutti hanno questo look e non riesci a modificarlo. Allora, per trasformare un uomo classico, mi fanno paura, però perché penso che così belli, ecco, ordinati, ecco. Io non voglio pensare oltre alla moda, non cosa riescono fanno a vedere oltre, a guardare, a guardare. Sono gente veramente male intellettualmente, super, non dico niente, certo. Però di livello di vita troppo statici non va bene. Dico, ma tu, un uomo classico, io ho notato, dico, per cambiare una giacca da 3 bottoni, quando è il momento, allora 2 bottoni a 3 bottoni, o dal 2 riportarlo al 3, cioè è una questione di cintura. No, neanche quello. No, occorre un uomo classico, intendo, occorre veramente un sacco di tempo. Un lavaggio del cervello. Sì, ma proprio ci arriva con una lentezza, perché non riesci mai. Quando io dico non mi faccia parlare. E a proposito di tempo, io volevo chiedere alle nostre ascoltatrici quanto tempo i vostri compagni passano in bagno, perché con questo modo di darsi le creme, di guardarsi, di pettinarsi, e la lozione, il balsamo, dottoressa, l'uomo è più attento, consumano un sacco di creme, quindi c'è una vita nuova nel menage familiare. No, da guarda tempo. Lui è il principe, perché vivendo in una casa di 3 donne, poi gli abbiamo lasciato un piccolo bagnetto dove lui mette tutte le sue cose, e noi invece giriamo come farfallini felici in un bagno da donne, per forza di cose. È vero, utilizzano molte creme, molte per ringiovanire, per mantenere bella la pelle del viso, e questo ci piace. E abbiamo ancora Bruno da Mantova che perché siccome è perfettamente attinente alla domanda che vorremmo fare noi alla dottoressa, direi perfetto, che possiamo sentirlo. Sentiamolo. Intanto, quanto tempo i vostri compagni passano in bagno? Ditemelo per favore. Bruno, 800 24 00 24. Bruno, quanto sta in bagno lei alla mattina? Bruno? Ma io circa... Mi sente? Sì. Sono seduta, può dirmelo. No, una mezz'oretta, ma faccio tutto e poi per il resto del giorno sto bene. Ok, vabbè, mezz'oretta è quasi un uomo da sposare. Neanche troppo. Ecco, neanche troppo. Bruno, venga la sua domanda, che così la passiamo alla dottoressa. Ma io ho trovato, dato che mi piace un po' dilettarmi in queste cose, che recuperando dell'ambra di scarto e estraendone i principi, poi con l'incenso scolato con del retinolo e crema idratante, trovo che un notevole giovamento all'aspetto del viso. Inoltre con una siringhina all'esterno passo sì. dell'acido ialuronico non tutti quindi... i giorni, di tanto in tanto. Proprio. Hai capito qua? Dottoressa, ha capito? Ma, cioè, una crema fai da te in fondo, ha preparato. Sì, però i principi attivi che ha utilizzato il Bruno sono comunque dei principi attivi che vengono comunemente utilizzati anche da noi, quindi il retinolo, che sostanzialmente è vitamina A, è uno dei prodotti che maggiormente viene impiegato nella cosmesi per ringiovanire la pelle, o comunque per cercare di mitigare l'invecchiamento cutaneo, quindi serve a sfoliare la pelle, è un prodotto molto buono, quindi ha fatto bene a utilizzarlo, non so bene in che concentrazioni eccetera, però è sicuramente un ottimo prodotto, ecco, quello che lui ha utilizzato, come anche l'acido ialuronico, sicuramente lo conosciamo tutti, è quello che viene usato anche per i filler principalmente, certo. Quindi è sicuramente... Che usano adesso anche gli uomini, vero? Assolutamente, sempre in percentuale minore rispetto alle donne, però le cominciano a utilizzare. Sì, strizzano anche loro l'occhietto, perché la rughetta anche all'uomo non piace. Filler e Botox. Vero, e vanno. E noi andiamo anche noi, perché è tempo di andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade. Lancio solo questo messaggio di Cristina, perché è molto carino, e volevo poi lanciare un altro tema a Beppe Angiolini. Steve Jobs aveva solo dei dolce vita neri ed era un uomo eccezionale. Certo. Chiederò poi un giudizio a Beppe Angiolini sullo stile Marchionne, perché qua ha ribaltato un po' tutto il concetto. Delle riunioni di lavoro, certo. Anche lui a un certo punto, papam, è arrivato con la barba. A tra poco. Cuore e denari. Questa puntata stamattina è molto divertente, avremo bisogno di tutto il pomeriggio per argomentare sul tema dello stile maschile, e chiaramente ci sono in molti che stanno intervenendo al 349-238-666. La leggiamo quest'ultimo messaggio sul quale, sì esatto, perché l'ascoltatore dice: ma insomma, altro che cravatte, voi fate tanto le pulci ai nuovi uomini su come ci facciamo il nodo, poi voi venite a letto con quei calzettoni pesanti e il pigiamone col panda davanti. A parte che noi questo signore non lo conosciamo, esatto, quindi lui non può sapere non... Poi come andiamo a letto, esatto. Io devo dire che non metto né pigiamoni né pandoni. Solo una goccia di Chanel numero 5. Esatto. Eccola là, lo una sapevo. Cosina leggera solo di seta. Quel povero Carlo, quante ne deve vedere, ragazzi, dentro quella casa. Lo salutiamo con affetto. Certo. Allora, ritorniamo. Poi parleremo di nuovo ancora di pelle, barba, perché anche gli ascoltatori stanno continuando a scriverci Molti hanno la barba, ma secondo me se la fanno crescere spesso gli uomini che hanno pochi capelli, dottoressa Grazzini. E anche il pizzetto adesso è molto gettonato. È un po' gettonato, inversamente proporzionale, tanti peli, pochi capelli, come mai? Ma il problema della caduta dei capelli è sicuramente il problema estetico più importante per l'uomo, colpisce forse l'80% degli uomini. Quindi chiamateci 800-24-00-24. In studio siamo ben messe, non vedo grossi problemi. No, anche Beppe ha proprio una chioma foltissima, Beppe Angiolini, per cui... Beppe Angiolini, ma tra l'altro lei è stato definito il cacciatore delle tendenze, perché io ho letto su qualche settimanale femminile che è stato definito anche in questo modo. Ci ha già detto più o meno che cosa indosseranno gli uomini nella prossima stagione, che cosa cercano gli uomini quando entrano nella sua boutique, ma quando lei legge di tutti questi uomini pubblici, appunto, a cui tutti fanno un po' le pulci su come si vestono, sulle loro caratteristiche di stile, lei che pensa? Qual è l'uomo meglio vestito a suo avviso? Non è bello dare giudizi, però ci divertiamo un po' stamattina. Ho un concetto, tu sei prima di Marchionne. Io credo che un uomo che va, o di un Berlusconi se vogliamo, un uomo che va in una riunione o che si presenta, un uomo di un certo tipo, una certa età, che è un grande, maturo diciamo, per me una camicia, anche se non senza cravatta, è più appropriata che non una maglietta. Poi uno può fare quello che vuole. Certo. Io dico, la maglietta, tempo libero, uno deve essere come vuole. Io sono trasversalissimo in tutto, quindi non è contesto sta cosa. Però una bella camicia, una giacca, a una riunione, anche se uno è moderno, anche se uno è ultramoderno e giovane, la preferisco a un dolce vita. Steve Jobs è un altro personaggio, parliamo di un altro mondo. L'intellettualità che vince, quindi non che Marchionne e Orazio non siano... È un mondo diverso. Tecnologico va bene il dolce vita, esatto. Nell'industria automobilistica è più appropriata la giacca con la cravatta, quindi Marchionne, però ecco. E poi parliamo anche del vostro sindaco, non suo, della nostra Renzi, Matteo. Per gli amici, Matteo con camicia. Certo, sempre camicia, sempre porta camicia. Spesso quelle piccole cravatte nere, molto sottili. Senza giacca. Se è polda, si era molto, camicia, è molto, molto emotivo, molto non ha una... Dottoressa Grazzini, come viso, cos'è? Non, ha, non è segnato è perché giovane, no, è giovane, giovane, ma anche non è magrissimo, È vero, c'ha e un po' di strato adiposo. Ecco, i chiletti in più, ragazzi, ringiovaniscono perché tendono un po'. Dobbiamo dire che è molto dimagrito negli ultimi 3 o 4 anni, quindi forse anche bene. Dalla rivista Vogue America, l'uomo più in look più bello del mondo, cioè, l'uomo più elegante del mondo è scritto la Poeca, per esempio. Che è un look esagerato a volte, eccessivo, però se lo guardi a quel gusto nostro, sartoriale, un po' ironico, un po'. C'è un servizio su Vogue Italia adesso, la copertina, tra l'altro, vedi che effettivamente se lo guardi in certe cose è un uomo elegante. Tu parli di Vogue Italia, io chiederei alle nostre ascoltatrici: qual è l'uomo più bello di Radio 24? Tra i nostri conduttori. Dai, ma lo sai no, come finisce dopo, lo sai. E dai, così siamo contenti. 800 24 0024. Essere e benessere. Barba o capelli? Osvaldo. Che è un nuovo taglio? Dov'è? Non so di chi parli, non so chi è Osvaldo. Senti, amico, io sono un duro. E se credi di fare parlare me sei cascato male. Barba o capelli? Barba. Risparmiamo per il dopo barba, perché adesso va di moda farla crescere. Dal mondo del calcio, Pirlo, De Rossi, Moscardelli a Hollywood con Russell Crowe, a Christian Bale, ai Reali con Harry, la barba la fa proprio da padrona. Sì, perché smagrisce e anche un po' protegge la pelle. Dottoressa Grazzini, è vero? Un po' fa da trucco, il trucco per le donne e la barba per gli uomini. No, è verissimo, la barba... proprio il pelo, il follicolo del pelo protegge la pelle da tutto quello che è il freddo, il vento e soprattutto il sole, che è il primo responsabile di rughe e macchie. Quindi la barba aiuta sicuramente la pelle del volto dell'uomo, la migliora indubbiamente se portata per un periodo un po' lungo. L'importante è che sia curata, vero? Certo, assolutamente. Poi una barba lunga non è stata trascurata, guai. Infatti. Il tuo sondaggio ha due prime risposte, solo che un ascoltatore risponde che il più bel conduttore di Radio 24 è Sergio, ma non saprei a che ora va in onda questo conduttore. E poi chiaramente c'è Cruciani, che bene, però ne abbiamo, c'è Matteo Caccia, c'è Sebastiano, c'è Carlo Genta. Io devo Pardo. Dire che noi non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, in quanto a stile poi Oscar Giannino non si fa parlare dietro. 800 24 0024. Che dire di Paolo Corleoni, che qui oggi regia la parte tecnica, bello come il sole. Davide Ciocia non parla, è nascosto un po' in ombra. Noi siamo circondati da belli uomini, a Radio 24 va così, siamo fortunate. E allora che cosa facciamo adesso? Si curano parecchio. Vogliamo sentire se sono pronte da Milano, vogliamo sentire se è pronta da Milano anche questa scheda che ritorna sulla questione dei costi e le spese che gli uomini affrontano per farsi belle. Sentiamo. L'indagine che lo dimostra è stata condotta da una grande catena inglese che ha svelato il segreto. I trentenni spendono all'incirca 100 euro al mese, di più dei ventenni, che ne spendono in media 35, e persino dei cinquantenni, che acquistano prodotti di bellezza per 45 euro. Stando ai dati dell'Unipro, l'Associazione Italiana delle Industrie Cosmetiche, si aggirano intorno al 30-40% gli uomini italiani, tra gli under 35 e gli over 50, che acquistano cosmetici maschili e frequentano con una certa assiduità i centri benessere. Ma quali sono i difetti che più spaventano l'universo maschile? Secondo una ricerca condotta dalla Doxa, al primo posto tra le paure c'è la calvizie, seguita dalla pancetta e dalla sudorazione eccessiva. Ma anche la mancanza di muscoli e i peli superflui sono molto temuti. Insomma. Dottoressa Grazzini, lei ne ha da lavorare. Sì, per nostra fortuna direi. Perché le hanno tutte loro, la calvizie, la sudorazione eccessiva, i peli. Ma quando si presentano nel suo studio hanno ancora un po' quella vergognina, quel pudore, no, di raccontare le loro, come dire, richieste estetiche? Ma veramente assolutamente no, anzi, quando vengono sono abbastanza disinibiti, molto più delle donne che ci vanno un pochino più con i piedi di piombo, ma non lo voglio dire a mio marito, una cosa che non si veda, mentre invece l'uomo è deciso, sa esattamente quello che vuole, ha già letto, ha già studiato, sa già esattamente qual è il suo obiettivo, sicuramente non ha vergogna per niente. Allora chiudiamo tra 4 minuti e quindi abbiamo il tempo per altri ascoltatori. Luciano da Parma, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, buongiorno. E buon anno, perché siamo ancora in tempo a fare gli auguri, io li faccio ancora fino alla fine del mese. Luciano, ci dica. Luciano vi vuole dire che sotto il profilo storico l'estetica nella sua postmodernità, l'uomo nel Novecento fondamentalmente ha scoperto il minimalismo, copiandolo dal razionalismo, quando Mies van der Rohe diceva less is more, il meno è il più. Questo non ha riguardato la donna, che può ancora arricchirsi di abiti meravigliosi, mentre noi siamo ridotti proprio al nulla. E vi dice anche che, e lo chiede all'esperta dermatologa, sì, la dottoressa perché Grazzini, venga minimizzata la questione viceversa della chirurgia estetica, che mi pare stia profondamente contraddistinguendo il nostro tempo. Grazie. Domande per tutti. Allora, dottoressa. La correzione, il ritocchino piace sempre di più anche agli uomini che hanno le idee chiare, diceva dottoressa Grazzini. Luciano dice che sta un po' invadendo, no? Caratterizzando quest'epoca. Sì, sicuramente l'approccio della chirurgia estetica è un approccio che è ancora sempre molto femminile, però sta anche trasversalmente colpendo i maschi, anzi interessando gli uomini. Sono soprattutto interessati alla questione dei pettorali, aumentare... Ecco, quali sono i trattamenti più richiesti e quelli, non dico che lei consiglia, ma proprio che possono essere fatti per regalare un tocco anche di naturalezza, cioè senza stravolgere... Sicuramente il più comunemente richiesto è la depilazione, sì. La depilazione permanente, quelle che vengono chiamati semipermanenti, che durano per un periodo lungo di tempo, soprattutto per le spalle, per chi ha tantissimi peli, che oltre a essere una questione estetica, tanti uomini ne hanno anche un problema di tipo legato agli sport che praticano, massaggi e queste cose. Quindi l'epilazione è estremamente comune. E poi la correzione di rughe non La medicina estetica, sicuramente la correzione di rughe, il botulino è una cosa che viene comunemente utilizzata perché dura per molto tempo, quindi non hanno bisogno di tornare allo studio troppe volte. Perché l'uomo vuole evitare l'effetto della faccia, del viso stanco. Leggevo che a differenza della donna che vuole comunque ringiovanire, l'uomo vuole evitare di avere il viso affaticato, segnato, certo, e quindi certo. Che richiede anche il trattamento estetico, anche se noi un po' vissuto ci piace. Va bene, senti, troviamo questa. Qualcuno che non ci piace, però, ad esempio. Adesso il tempo del giornale radio ci pensiamo. Ti leggo però cosa ci scrive un'ascoltatrice che intanto come oggetto della mail mette le belle, rivolgendosi a noi, si fra un po' do la linea al giornale radio. Le belle. Mia figlia. Mia figlia a Londra lavora in un locale. Un mese fa era ospite Sting. Qua, Angiolini, purtroppo deve rimetterci le mani perché si presenta straccione, nessuno stile, proprio in curia, cliente fisso è George Michael, in tuta viola e rosa è strafighissimo. E con questa sogniamo, ragazzi, prendiamoci andiamo. Una pausa, giornale radio, torniamo tra pochissimo. Cuore e denari. È talmente abbronzata. Il colore lo danno con lo spruzzatore. Con uno spruzzatore, hai detto? Comunque sia, il risultato finale è veramente fantastico. Forse lo farò anch'io. Tieni, l'indirizzo del solarium. Grazie. Prego, signor Geller, da questa parte. Allora, quanto vuole abbronzarsi? Qui abbiamo una scala da 1 a 3. Senta, che cosa succederà adesso? Il massimo dell'effetto si avrà soltanto fra 4 ore. E allora quanto diventerà scuro? Beh, con una doppia irrorazione... Forse un 4? Sì, e comunque la schiena è a 0. Vabbè, Friends va bene per tutte le stagioni. Se bello vuoi apparire un po' devi soffrire. L'abbronzatura fa però soffrire un po' la pelle, toglie soprattutto il grigio, forse artificiale, non so. Perché gli uomini, non potendosi truccare, non usando magari i trucchi, allora patiscono un po' dell'aspetto grigiastro che anche quello che noi poi abbiamo a Milano gialle diventiamo, quindi dottoressa. Ma sicuramente l'abbronzatura di per sé non è che fa male prendere troppo sole in modo esagerato e soprattutto fare troppe lampade. Certo, cose... troppe cosa vuol dire? Troppe significa più di quotidiano, cioè in un periodo nel mese almeno una volta a settimana è già anche tanto. Sì, perché le settimane comunque poi sono 52 ed è un attimo. Quindi... che... perché poi c'è una sorta di dipendenza, sì, nei confronti dell'abbronzatura che è stata studiata proprio dai ricercatori. Ma Beppe, l'uomo abbronzato secondo te è ancora di moda o sta passando? No, diciamo, un tocco di colore, cioè l'abbronzatura sta bene salutare a tutti, certo. Fa salute, come dicevo prima, è bello, no? Positivo. Troppo abbronzato? No, no, veramente no, basta sta storia di questi uomini troppo neri. Anche in... e poi se uno ha un incarnato comunque molto chiaro, è inutile che ti camuffi. Ma guarda, tutto quello che è troppo, quello che è eccesso non va, non è più niente, di moda, nel look, nel tutto quello che nel modo di fare. Dottoressa Grazzini, ma si possono utilizzare delle creme autoabbronzanti? Sono formulate in modo molto diverso rispetto al passato, quindi sono anche più rispettose della pelle, o sbaglio? Assolutamente sì, le creme autoabbronzanti non fanno male, questo lo possiamo dire, non hanno nessun tipo di effetto collaterale, mentre prendere il sole in modo artificiale fa male, fa venire il tumore della pelle, mentre l'abbronzatura con le spray, come abbiamo sentito prima, è assolutamente non dannoso, serve soltanto a ossidare gli strati superficiali della pelle, che poi vanno via col ricambio naturale delle cellule superficiali, quindi non dà nessun tipo di problema. Però a mio avviso non conferiscono proprio un gran colore, non so se siete d'accordo, però si assume quell'aranciato, che è veramente lo vedi, però magari ce ne quelle sono più buone. Nuove sono anche più sul marrone, più però che sul bisogna giallo, darsi bene arancio. Queste creme, perché sennò ci si mette, si arrivano le chiazze, Le abbiamo un po' smontati tutti nell'utilizzo delle creme 8 abbronzanti. 00240024, vogliamo sentire tutte le vostre telefonate. Tra poco sentiremo un grande amico di Cuore Denari, il dottor Filippo Ongaro, perché potevamo in una puntata tutta dedicata alla moda, allo stile, non parlare di stile di vita, ma di nutrigenomica, che è molto di moda. Ma quante ne sai? Hai visto? Ma quante? Quindi, chi peschiamo? Avete bisogno anche di un consiglio del dottor Ongaro, fatelo subito, chiedete subito, chiamatelo 800240024 e intanto diamo la precedenza a... Chi è che aspettava da un po'? Andiamo a Nicola dalla provincia di Venezia. Nicola, buongiorno. Buongiorno Nicola. A tutti. Buongiorno. È bello. Buongiorno, Nicola, lei? Si sente bello? No, le dicono che è bello o è solo un uomo... O piace? Piace. Ma diciamo che mi sento un po' estraneo questa vostra discussione di stamattina, perché sono uno di quei rudi uomini, anche se quarantenne, che non usa cremine, cremette, botulini, casini vari. Mi piace stare naturale, fare un po' di sport, invece, soprattutto, sì? Perché mi sembra che una è uno che dei pilastri, come dice il dottor Ongaro, dello stile di vita, sport, ok? Penso di sì. L'unica crema che utilizzo per questioni di sicurezza dopo pelle per il dopo barba è proprio la crema dopo barba. E invece ho scoperto da poco, grazie a mia moglie, di eliminare tutti i vari deodoranti, casini, eccetera, il grande uso del bicarbonato, che è una cosa fantastica. Dottoressa Grazzini, ci dà due belli spunti, Nicola, il bicarbonato e poi questa crema dopo barba. La crema dopo barba fa bene per dare idratazione alla pelle, per nutrirla? Assolutamente sì, come dopo barba l'idratazione è la cosa più importante, al di là delle lozioni profumate, eccetera. Sicuramente la cosa importante è idratare la pelle con prodotti specifici, insomma, anche che devono incontrare un po' il gusto dell'uomo, quindi a volte in gel che si assorbono meglio, mentre non quelle cose troppo unte che piacciono più a noi donne, forse. E un'altra cosa da dire importante sulla rasatura, forse visto che siamo in tema, ricordarlo, ricordiamoci di pulire il rasoio, cioè il rasoio deve essere cambiato spesso, e anche se usate i rasoi elettrici, le testine devono essere ben pulite, perché sennò si rischia di andare incontro a follicoliti, irritazioni di vario tipo, insomma, bene fare attenzione a questa cosa. Il bicarbonato, Nicola, per quale utilizzo lo impiega? Nicola, non abbiamo più? Beh, non è deodorante, Come deodorante? Come si utilizza? La polvere. Esatto, ma la si mette sotto l'ascella, cioè fatemi capire. Nicola, perché cosa fa con questo bicarbonato? Io metto un po' di polvere fra due dita, fra l'indice e il medio, due gocce d'acqua, la rendo come una cremina e la spanno. Sì, è una crema che asciuga, quindi ha sicuramente un suo valore. A giudicare dalla sua faccia è... la stupisce un po' questa... No, è una cosa non comune, però capisco un po' il senso, ecco, dell'utilizzo. Ha una sua logica. Sì. Grazie a Nicola, il rude Nicola, quarantenne dalla provincia di Venezia. Che non si darebbe una crema neanche se la moglie lo costringesse con la pistola. Andiamo a Marco da Milano, perché poverino aspettava da un po'. Mille Marco. Marco. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, la mia domanda è semplice, riprende un po' la barba e l'irritazione che si ha sulla pelle con alcuni indumenti. Unendoli insieme praticamente il senso qual è? Io con la mia barba, quando bacio il mio bimbo, a lui sulle guance vengono quei classici puntini rossi di, appunto, irritazione. Da bacio si chiama irritazione da bacio di barbuto. No, la sto inventando ora, ma è così, dottoressa. Sì, sì, assolutamente. Cioè, il pelo, soprattutto se la barba non è lunghissima, ma è una misura media, è irritante, perché strofina la pelle, è come usare una sorta di carta vetra, no? Sulla pelle, soprattutto se il bambino è piccolo, ha una pelle molto più sensibile, molto più delicata, e chiaramente si irrita. Questo succede anche alle donne, ecco, tante volte, quando baciano i mariti. Vedi, la regina Elisabetta aveva visto lungo, tagliati quella barba. Al nipote, neanche perché... stesse sempre lì a sbaciucchiarsela la nonna, però... comunque adesso dai, su, vabbè, comunque detto questo. Anna, buongiorno da Frosinone. Buongiorno. Anna, che carina chiamarci, abbiamo avuto tutti uomini oggi. Giustamente, ecco, sì, sì. Qua siamo a Firenze nel loro regno. Una donna che comunque chiede per gli uomini. Come sempre, Anna, per noi come chiediamo sempre, poco. Come spesso. Io infatti volevo chiedere alla dottoressa se esistono dei metodi, dei procedimenti, non so, cioè creme o quant'altro, non oso immaginare, per camuffare la calvizie. Beh, abbiamo visto qualche esempio. Senta, è per suo marito la domanda, per il suo compagno? Anna? Scusi, sì? È per il suo compagno la domanda? Perché gliela vuole camuffare? Sì. Ma non diventa un po' brutto, un po' ridicolo, come dire, qualcosa che camuffa di artificiale una persona, no? Lei non la vuole vedere? Cioè, camuffa nel senso che in un'occasione si vede di meno, ecco. Cioè, camuffare col parrucchino, voglio dire. Un tampone temporaneo per qualche circostanza pubblica dove lo vuole portare con i capelli, non vuole farlo vedere stempiato. Quindi, dottoressa. Al di là dei parrucchini esistono sicuramente delle schiume, degli spray che hanno un po' una sorta di effetto pigmentante, colorante, che ricorda un po' il capello. Un po' evidenti, ecco, quindi non danno proprio un effetto naturale. Però vorrei ricordare che, e la cosa importante è che nel caso ci si può anche un po' curare, specialmente se l'alopecia, quindi la calvizia, quella che si chiama alopecia androgenetica, viene presa in tempo, si può fare anche un po' di terapia. Esistono delle pasticche che possono essere prese, delle lozioni che aiutano quantomeno a non perdere i capelli restanti, certo. Quindi è sempre utile. Vabbè, 800 24 00 24, continuiamo a discutere soprattutto di stile di vita, fra un po' lo presentiamo subito. Potevamo? No, anche perché ancora sono passati alcuni giorni, è iniziato l'anno, ancora non l'avevamo mai chiamato. Dottor perché Filippo Ongaro. Dottor Ongaro, buongiorno. Buongiorno e buon anno, visto che non ci eravamo sentiti. Non si poteva continuare così. Come poi state? Stiamo molto bene, poi le devo raccontare un episodio per le sue bacche di goji che mi è capitato stamattina, perché io ovunque mi trovi, dottor Ongaro, una volta che lei me l'ha consigliata, mi deve capitare veramente sempre qualche avventura. Veramente te le ho consigliate io? No, vabbè. Il dottor Ongaro ha messo la parte, vero dottor Ongaro, cioè io la porto verso le bacche di goji e lei dà il merito al dottor Ongaro. Poi le racconto cosa è successo a un mio vicino di tavolo questa mattina mentre in albergo facevo colazione. Gliela racconto subito. Le ha messe, se le ha portate, questo signore, che è un signore anche un po' attempato, molto distinto, un bell'uomo, si è seduto vicino a me, ha chiesto il suo cappuccino, si è preso qualche dolcetto e ha tirato fuori dalla sua tasca un contenitore di vetro con le bacche di goji, per cui se le ha portate da casa, e già questo è tutto un programma. Ci piace. Ma a parte questo, le ha messe in acqua calda e ci ha versato sopra il tè. Che mi dice? Io sono rimasto... È una pratica, capitano tutte a voi queste cose, a me non capita mai. Io sono quando vado in albergo vedo cornetti, torte, ma bacche di goji raramente. Dottore, ma... se domattina, visto che siamo ancora qua a Firenze anche domani, se mi ricapita che il mio vicino di banco lo fotografo e poi glielo mando. Comunque, lo faccio vedere. No, ma io vi credo, ma comunque credo che abbia fatto anche una cosa interessante, perché in effetti, insomma, si può anche, se possono usare le bacche anche per fare delle tisane, perché no? Molte delle proprietà vengono estratte attraverso il procedimento indotto dall'acqua calda, quindi non ci vedo niente di sano, è un po' come si fa col tè verde. Quindi ricordiamo che le bacche di goji hanno queste proprietà, dottor Ongaro, per chi magari si fosse messo in contatto con noi solo ora, dottor Ongaro. Conoscere le proprietà delle bacche di goji, che sono così ormai comuni ovunque, no, sono degli antiossidanti, devo dire, cominciano a essere abbastanza comuni, se ne parla molto, e forse anche un pochino troppo, perché non è che siano delle bacche miracolose, però hanno un contenuto di antiossidanti molto elevato, contengono molto beta-carotene, sono ricche di fibra, non sono particolarmente caloriche, quindi come piccoli snack al posto di cose meno salutari, perché no, possono andare bene. Noi abbiamo iniziato a parlare di bacche, di goji tanto tempo fa, adesso praticamente siamo quasi... Nelle testimonial ufficiali. Non devo dire stufi di parlare di bacche, di goji, ma insomma siamo andati avanti. Perché, dottor Ongaro, noi oggi che parliamo di moda, di stili, vorremmo parlare anche della nutrigenomica, che è di moda da un paio d'anni, e ne abbiamo parlato tante volte, già ancora quando pochi ne parlavano proprio insieme a lei. Sì, è di moda perché è uno dei temi caldi e forti della ricerca scientifica in campo alimentare di questi ultimi anni. Insomma, il fatto di aver abbandonato una visione esclusivamente calorica dell'alimentazione, ma aver cominciato a capire che effetti ha l'alimentazione, quindi che ruolo hanno i singoli nutrienti all'interno del nostro corpo, arrivando a capire che regolano l'espressione dei nostri geni, quindi possono accendere geni cattivi o spegnere geni buoni o viceversa, è una cosa, un po' una rivoluzione copernicana, che ha fatto sì che molte cose che davamo per scontato prima, anche su alimenti che pensavamo avessero degli effetti molto simili tra di loro, perché magari avevano contenuti calorici simili, e in realtà poi sortissero degli effetti differenti. La nutrigenomica chiaramente si colloca nel contesto, come giustamente avete detto voi anche prima, di uno stile di vita, quindi non è anche qui l'unica cosa, come non è l'unica cosa il trattamento estetico esterno, ma è, diciamo, sono tasselli di un mosaico che ognuno di noi si crea nella propria vita, di cura di se stessi, senza eccessi e senza esagerazioni, ma credo che sia una cosa importante anche che diventi come posso dire, una parte della vita degli uomini, che tendenzialmente sono meno propensi a prendersi cura di sé in termini salutistici. Quindi senza eccessi, ha sottolineato il dottor Ongaro, un consiglio che ha dato anche il nostro esperto Beppe Angiolini per quanto riguarda la moda, ma anche la nostra dermatologa: senza eccessi, forse servono proprio pochi prodotti, ma misurati proprio per la propria pelle. Una sorta dottor di manutenzione Ongaro. Ordinaria, certo, insomma, non fare niente di straordinario. Ecco qua, dottor Ongaro, ma non ci sono naturalmente alimenti per uomini e alimenti per donne, anche se abbiamo capito con la dottoressa Grazzini che ci sono delle differenze nella pelle dell'uomo e nella pelle delle donne. Lei ci può dare qualche indicazione per gli uomini all'ascolto? Oggi parliamo di loro e quindi li privilegiamo. Ma devo dire che è un tema che a me è abbastanza caro, ne abbiamo parlato altre volte, l'avete citato anche voi prima come una delle tematiche di cui si preoccupano gli uomini quando cominciano a entrare, diciamo, nella quarta, quinta decade, che è la perdita della massa muscolare. Credo che sia importante per le donne, ma è importante forse ancora di più per i muscoli, per gli uomini, mantenere un certo tono muscolare. Per questo sono molto importanti le proteine, che vengono molto spesso denigrate con un atteggiamento un po' generico del tipo mangiamo troppe proteine. In realtà non ci sono molti dati a sostenere questo, particolarmente in un paese come l'Italia, che siano di tipo vegetale, quindi soprattutto dai legumi, o di tipo animale, selezionando in particolare il pesce, questo è un altro discorso, ma è importante salvaguardare un introito proteico adeguato, soprattutto per chi fa attività sportiva, perché altrimenti l'attività sportiva, se non è sostenuta da un adeguato introito di proteine, finisce col catabolizzare i muscoli invece di farli crescere, quindi ottengo l'effetto opposto di quello che desidero. Sì. Ottimo. Quindi uomini non hanno più scuse. Non avete più scuse, sapete tutto quello che dovete fare per restare come siete magnifici e meravigliosi. Dottor Ongaro, grazie per essere stato con noi. Grazie molto e buon anno. A presto. Volevo tornare per qualche curiosità a Beppe Angiolini, perché lui è più conosciuto più che come presidente della Camera dei Bayer, che è conosciutissimo con questo incarico, ma soprattutto come Beppe di Sugar, perché le sue boutique si chiamano così. Però volevo dirlo, zucchero, alimentazione, sugar, mi piaceva fare questa battuta ridicola, ma a me no, a parte carina, molto mi è piaciuta. Io voglio sapere che cosa fa la Camera dei Bayer, Angiolini, perché è così importante questa istituzione per questo settore che ancora, io direi, per il lustro che dà al nostro paese in tutto il mondo, ha impedito al nostro paese di precipitare in questa crisi degli ultimi anni. Posso essere così drastica in questo giudizio? Comunque la moda è un settore sempre trainante nel nostro paese, siamo il Made in Italy, veramente è fondamentale, cioè nel senso siamo i più bravi, siamo bravi a costruire, a fare i capi, nello stile, voglio dire, insomma, non ci sono parole, la qualità della manifattura. La Francia, dico che è un paese, il nostro concorrente, forse adesso in questo momento è quasi più importante di noi per certi marchi, voglio dire, purtroppo, certo, perché si sono comprati tutti quelli italiani, esatto, però viene a produrre qua da noi, perché la nostra creatività, la nostra, e questo noi dobbiamo capire, bisogna essere bravi tutti quanti, istituzioni, la Camera della Moda, i Bayer, di unire le forze per valorizzare questo Made in Italy, perché veramente è una forza importantissima, certo. Ma non, nella moda assolutamente, ma anche in altri settori, siamo veramente i più creativi, i più, ma io guardo delle cose, a volte vado in altri paesi, ma come da noi non esiste, quindi noi come Camera di Bayer abbiamo diciamo questa associazione che raggruppa tutti i migliori boutique del lusso in Italia, sono 350 boutique, e cerchiamo di collaborare insieme per quanto possibile. Voi andate proprio facendo i buyer a comprare dai produttori, e quindi in qualche maniera siete coloro che dettano la legge delle prossime stagioni, no? Diciamo che allora, facciamo così, che lo stilista crea, no? Una collezione, poi c'è la stampa che la promuove, quindi c'è la pubblicità, anche noi i giornali, il nostro ruolo, ruolo anche voi, poi c'è le aziende che producono il capo, quindi lo fanno più o meno bello in base alla qualità, al tessuto, cioè, e poi ci sono i buyer che selezionano questi capi, che sono prodotti creati dallo stilista, che vengono riportati poi nella strada, perché siamo noi a riportarlo al consumatore, la gente comune, quindi è un ruolo molto importante. La prima selezione, diciamo così, di scelta, di tendenze, forse viene proprio. E se guardiamo oggi, pensiamo oggi a tutti i blog che ci sono nel mondo, questa nuova, diciamo, categoria molto importante. Quelli sulla cucina soprattutto, però. Poi dico, tu pensa che tutto quello che vedi fuori, la moda è molto veloce in questo momento. Tu guarda, la strada insegna, quindi i blog che fanno dei look e poi la gente li guarda perché ti riporta, ti fa vedere quello come cosa andrà domani, quindi è veramente importante portare le cose sul pubblico finale, sulla strada, è l'essenza, è il fulcro, è tutto lo quello. Sai che Beppe Angiolini, se non ho capito male da qualche sua intervista che ho letto in questi ultimi giorni, cura personalmente l'allestimento delle sue vetrine, perché naturalmente è molto importante catturare l'attenzione. Che cos'è che attira di più? No, guarda, l'immagine di un negozio per me è come dire un titolo di un libro, tu passi una vetrina, è come la pelle, il biglietto da visita di cui parlavamo prima, tu guardi una strada, passi in qualsiasi Milano o dove sei, la mia città, vedi un negozio, passi, quello che ti colpisce è quello che vuoi presentare, quindi il titolo del tuo negozio deve essere quello che corrisponde poi all'interno, al contenuto, quindi tu dai per me è una forma di arte, diciamo così, non voglio essere presuntuoso, una forma di arte, però che dà il senso di quello di chi sei, quello che vuoi dare, quello che vuoi presentare, perché oggi un agente deve mettere tante cose in vetrina per colpire, per attrarre un po' meno, di qualità, togliere non aggiungere, no? Cioè, togliere meno, ma non aggiungere. Poi la gente oggi deve pensare questo, un uomo, un consiglio che posso dare io, è quello di mettere le cose che stanno bene addosso, ma anche una donna, cioè non comprare la moda perché è moda o di tendenza, siamo nel 2014, dico, occorre comprare bene, quindi dico, un uomo acquistare, una donna ugualmente, le cose che fanno belli. Belli nel senso non belli, che ci fanno che donano, sentire che bene e che danno il proprio stile, torniamo sullo stile, che siano appropriate al proprio io, questo è importante, non comprare così senza insomma, sembrano veramente qualche volta dei suggerimenti di buonsenso fin troppo scontati, ma in realtà si cade appunto qualche volta nell'eccesso e anche nel ridicolo, no? Proprio perché si ha magari la disponibilità economica oggi un po' rara, per la verità, perché c'è molta crisi nel settore. Angiolini, voi come la vivete dal vostro punto di vista? Dunque, sì, in Italia c'è abbastanza momento particolare, molto difficile, molto per quanto riguarda tutte le spese, diciamo così, di il comparto moda, però dico, io ieri parlavamo qui alla presentazione di Pitti Immagine, c'era anche Calenda, il vice ministro, c'era Renzi, Matteo e tutti quanti Matteo. Di parlare di Stinghe non è venuto, no, Stinghe non è venuto, di parlare di positività, di parlare di essere positivi, di guardare avanti in un modo comune, e smettiamo di parlare di questa crisi. La crisi la facciamo da noi dico, se cerchiamo di migliorarsi, certo, mica dico dobbiamo inventarsi l'economia, però darsi un po' basta. Benissimo, grazie. Allora, c'era Lella che ci voleva raccontare che le piace l'uomo peloso, in particolare quelli che si fanno le sopracciglia, Lella, e vabbè, a me l'uomo con le sopracciglia non piace, quale vedo belle folte. E poi un'altra ascoltatrice di cui volevo leggere un messaggio perché era molto carino, ci scrive: ottimo il sale potassio come deodorante per gli allergici e di Marsiglia per lavarsi, buon anno alle teppiste dell'etere. Volevo concludere così, con questo ascoltatore di così Xenon. Ringraziando i nostri ascoltatori che ci hanno seguito, li invitiamo nuovamente a seguirci domani, saremo ancora al Pitti. Dottoressa Grazzini, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie Beppe, buon anno, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto. Complimenti. Grazie. Ringraziamo Davide Ciocia, Paolo Corleoni, Laura Vanossi e Marco Lombardo da Milano. E noi andiamo a farci una pausa e ci ritroviamo domani in diretta. Buona giornata a tutti.